6D. Ascolta e rispondi. È il tuo quaderno? Sì, è mio. È il tuo dizionario? Sì, è mio. È la tua carta d'identità? Sì, è mia. È la tua patente? Sì, è mia. È il tuo documento? No, è suo. È il tuo cellulare? No, è suo. È la tua bicicletta? No, è sua. È la tua giacca? No, è sua.